Letture di Radio 24. Un giovane su due ha problemi di vista, il doppio rispetto ad un secolo fa, ma c'è un rimedio ed è alla portata di tutti. Non è causata da un virus o da un batterio, ma gli esperti l'hanno definita un'epidemia. In alcuni luoghi del mondo, come in Cina e Asia orientale, la miopia affligge quasi il 90% dei più giovani. 60 anni fa era intorno al 10-20%. Lo stesso avviene negli Stati Uniti e in Europa, dove i miopi, in particolare adolescenti e giovani adulti, sono uno su due, il doppio rispetto a un secolo fa. Un boom di occhiali, lenti a contatto, chirurgia refrattiva per correggere il difetto. La spiegazione tradizionale che la miopia, un difetto di refrazione, è dovuta soprattutto ai geni, non spiega un aumento così impressionante di casi. Si è data la colpa al tempo eccessivo trascorso su computer, tablet, telefonini, TV, disabituando gli occhi a focalizzare lontano. Ma neppure questa ipotesi pare soddisfacente. Le radici dell'epidemia, secondo le ultime ricerche, sarebbero nelle scarse ore di luce solare cui ci esponiamo. Uno studio su 500 ragazzini in California e un altro su 4.000 bambini australiani hanno individuato una correlazione significativa tra la prevalenza di miopia e la quantità di ore trascorse in ambienti interni o, al contrario, all'aperto. Dopo alcuni anni si è visto che i bambini che avevano passato più tempo al chiuso erano più miopi degli altri a parità di uso di tablet o computer, ha detto Catherine Rose, uno dei ricercatori dell'indagine australiana. Secondo quest'ipotesi, la luce solare protegge perché stimola il rilascio di dopamina nella retina, neurotrasmettitore che blocca l'allungamento anomalo del bulbo oculare. Un meccanismo d'azione ridotto dalla luce più scarsa degli ambienti chiusi. In Australia, per esempio, dove si passa più tempo all'aria aperta, la percentuale di adolescenti miopi è del 30%. Ian Morgan, dell'Università di Canberra, ha calcolato che per proteggersi gli occhi i bambini dovrebbero trascorrere ogni giorno almeno 3 ore all'aperto, con livelli di luce di circa 10.000 lux, l'unità di misura per illuminamento. In una stanza chiusa di lux ce ne sono più o meno 500. Per raggiungere i 10.000 in fondo non ci vuole molto. Una bella giornata estiva, anche all'ombra. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Stiamo diventando tutti miopi, da Panorama del 17 giugno. Radio 24 è al padiglione Cibus Italia a Expo Milano per una settimana con una programmazione da non perdere. Ti aspettiamo dal 29 giugno al 5 luglio con dirette e programmi speciali al padiglione Cibus Italia, dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Info su radio24.it. In collaborazione con Federalimentare e con il gruppo Cariparma Crédit Agricole. Letture di Radio 24. Il Family Day organizzato a Roma in difesa della famiglia tradizionale ha scatenato, come prevedibile, diverse polemiche. Il presidente onorario di Arcigay, Franco Grillini, quello che nel 2009, ospite a Sanremo, aveva criticato la canzone di Povia senza nemmeno averla sentita, ha definito la manifestazione Festival dell'omofobia. Il sottosegretario alle riforme, Ivan Scalfarotto, ha parlato di evento inaccettabile e manifestazione contro i diritti. Da più parti si è cercato di ridurre lo scopo dell'evento a una semplice condanna dei matrimoni omosessuali, se non addirittura a una semplice festa anti-gay, dimenticando o semplicemente negando un aspetto fondamentale della manifestazione, ovvero il desiderio di contrastare la diffusione dell'ideologia gender, ideologia che, partendo da una causa sacrosanta, ovvero quella di combattere le discriminazioni, è arrivata nei mesi scorsi a imporre norme educative che, almeno a detta degli organizzatori del Family Day, possono essere considerate estreme, come obbligare i bambini a travestirsi da femmine e giocare alla mamma, o imporre alle bambine giochi decisamente maschili, o ridurre i ruoli di mamma e papà a genitore 1 e genitore 2, eccetera. Eppure c'è chi nega perfino l'esistenza di un'ideologia gender, commenta Luca Volonté in un articolo pubblicato sulla rivista online Formiche, che poi prosegue scrivendo: affermare che non esistono programmi scolastici che la promuovono viola la realtà. Sul piano filosofico, la più accanita promotrice del genere e della sua ideologia, Judith Butler, e i suoi maestri degli scorsi decenni ben hanno teorizzato e promosso le loro idee, e diverse amministrazioni pubbliche in diversi stati hanno introdotto programmi propri per diffondere questa ideologia. In Italia, per un malsano senso di arretratezza, così sbagliato per un paese che è al centro della cultura mondiale, negli ultimi anni si sono ufficialmente e informalmente introdotte forme di educazione sessuale fondate sulla teoria e ideologia del genere. Dopo la diffusione degli standard per l'educazione sessuale in Europa del 2013, promosso dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la diffusione del programma triennale della Strategia Nazionale per la Prevenzione e il Contrasto delle Discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità del genere, promosso dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, si sono diffuse pratiche e insegnamenti fondati su questi programmi e su questa ideologia. Si sono cancellate le feste di papà e mamma nelle scuole del quartiere africano a Roma nel marzo 2013 per non discriminare i figli di famiglie diverse. Si è fatto leggere il romanzo Sei come sei al liceo Giulio Cesare di Roma, e sempre a Roma 200 insegnanti delle scuole d'infanzia hanno seguito il progetto La scuola fa la differenza, costruzione delle identità di genere. A Venezia, in 10 asili nido e 36 scuole d'infanzia, si è letta e commentata la favola «E con tango siamo in tre», così come a Perugia e in moltissimi comuni e istituti scolastici in tutta Italia. Si vuole attuare il cuore dell'ideologia gender, ricostruendo l'infanzia e l'identità dei bambini, sin dai primi anni attraverso le maestre e le scuole. Perciò sono esterrefatto dal prendere atto che autorevolissime prime penne di grandi quotidiani italiani neghino l'esistenza e l'attuazione in Italia di questa ideologia. Sono altrettanto stupito che nessuno di loro si sia reso conto delle preoccupazioni crescenti di milioni di genitori italiani su questo argomento. Ogni dato ed evidenza sociologico-statistica dimostra la sensibilità degli italiani su questa materia. Sarebbe stato sufficiente assistere o seguire l'attività e i molteplici incontri in ogni dove d'Italia dei giuristi per la vita, della Manif pour tout Italia, dei circoli di Voglio la mamma, Nonni 2.0 e di tanti e tantissimi esperti che ogni giorno da almeno 2 anni sono in pellegrinaggio in centinaia di sale parrocchiali, teatri, cinema italiani per spiegare cosa stia accadendo in Italia. C'è una fortissima preoccupazione, un grande desiderio di protesta e proposta verso la politica su questi argomenti, a partire dai diritti dei bambini e dei loro genitori, cioè a partire dalla famiglia. Col massimo rispetto per tutti, si vuole essere rispettati e si chiede rispetto. Le accuse di inciviltà e indegnità nei loro confronti sono solo offensive. Cosa è accaduto? Un popolo ha deciso di scendere unito in piazza per mostrare a tutti la propria preoccupazione e chiedere il rispetto dei propri diritti. È un popolo che ha una proposta da fare, fondata sulla riaffermazione della propria esperienza, dei propri diritti e della storia italiana. Questo popolo, ancor più massicciamente, è pronto a coordinarsi e a riprendersi altri spazi pubblici più consistenti nei prossimi mesi, con o senza il supporto ufficiale della Chiesa, perché le preoccupazioni sono ben lontane dall'essere svanite. A questo avvenimento di sabato non si potrà rispondere solo con parole di assicurazione o con silenzi. La politica dovrà rispondere con i fatti. È vero, qualcosa di nuovo è nato in Italia. Ciò che era accaduto in moltissimi paesi cattolici europei negli scorsi anni è avvenuto anche qui. Laici che liberamente si assumono responsabilità pubbliche in nome della società civile, non in rottura con la Chiesa, né mostrando segni di sudditanza psicologica verso la cultura di sinistra. Ci saranno occasioni in Italia e in Europa perché questo popolo dimostri sin dai prossimi mesi quanto sia adulto e in corsa. I bambini non si toccano. Le famiglie italiane combatteranno fino alla fine per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Luca Volonté, Ecco la vera novità della piazza No Gender, pubblicato il 23 giugno sulla rivista online Formiche. Nel disegno di legge del Jobs Act c'è una norma attualmente in discussione alla Camera che ha suscitato molte polemiche, dato che prevede di modificare l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, offrendo di fatto al datore di lavoro la possibilità di installare impianti e apparecchiature di controllo anche a distanza dei propri dipendenti. In particolare, c'è una disposizione che, scrive Guido Scorza sul Fatto Quotidiano, sembra aprire la strada a forme di controllo di massa dei lavoratori. Eccola! Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196. Il punto è che le disposizioni che la precedono, ovvero quelle del primo e del secondo comma, non stabiliscono alcunché in relazione alle informazioni raccolte dal datore di lavoro, limitandosi a consentire a quest'ultimo di installare taluni dispositivi e di consegnarne talaltri ai lavoratori. A quali informazioni dunque fa riferimento il governo? A tutte quelle raccolte attraverso gli apparecchi e dispositivi installati in azienda e forniti ai lavoratori? Se fosse così, sarebbe difficile resistere alla tentazione di unirsi al coro di quanti accusano il governo di spianare la strada a scenari da Grande Fratello. Questo è il commento di Guido Scorza dal Fatto Quotidiano del 22 giugno. Sul Corriere della Sera dello stesso giorno, Massimo Sideri sottolinea come, rispetto a quanto immaginato da George Orwell nel suo romanzo 1984, quello che cambia oggi è l'utilizzo di una tecnologia pervasiva fino al punto da rendere difficile, anche attraverso la legge, il controllo sull'uso che se ne fa. Le nostre quotidiane battaglie per la privacy con Google, Amazon e Microsoft dovrebbero alimentare il pessimismo. Se finora il tema si è posto soprattutto sul nostro essere consumatori, oggi si sta spostando sul nostro essere lavoratori. In Svezia, la società Epicenter ha impiantato sotto la pelle dei propri dipendenti un microchip RFID, un acronimo che sta per Radio Frequency Identification, che fino a oggi è stato usato per rintracciare il cagnolino scomparso. Grazie al chip si può entrare in ufficio sfiorando i tornelli con la mano e pagare il pasto in mensa con un dito. Geniale! Non è più fantascienza, è scienza. Peccato che quegli impianti seguano i dipendenti anche a casa. Si chiama hackeraggio biologico del posto di lavoro. Anche senza considerare esempi così estremi, la cosiddetta wearable technology, la tecnologia che si indossa resa famosa dai Google Glass, cambierà per sempre il modo di lavorare, ma anche i rapporti di lavoro. British Petroleum, già nel 2013, ha dato a 25.000 dipendenti americani un Fitbit, un braccialetto che monitora tutto, dall'attività fisica alla qualità del sonno. La finalità primaria non è la sorveglianza. Se il dipendente fa attività fisica, riceve dei premi che l'azienda bilancia con i risparmi sulle assicurazioni sanitarie. L'utile invadenza di queste tecnologie si trascina tuttavia un difetto originario, l'uso che ne faranno gli uomini dall'altra parte del filo. Non può sfuggire, per esempio, che i casi citati potrebbero costituire le radici di una potenziale discriminazione nei confronti dei più pigri. Questi dati sono teoricamente protetti per usi differenti da quelli dichiarati, ma chi potrà garantire che in caso di ristrutturazione un'azienda, senza dichiararlo, possa preferire i dipendenti più in forma e tagliare quelli sovrappeso? Altro tema è quello del tempo libero, categoria ormai gassosa più che liquida. Le comodità delle tecnologie di connessione hanno trasformato antropologicamente l'uomo, rendendolo sempre collegato a un invisibile cavo di fibra ottica. L'irreperibilità non è più socialmente accettata, come se fossimo tutti un po' presidenti americani con delicate incombenze atomiche. In qualche maniera, ciò è stato utile. Tablet e smartphone sono strumenti di produttività e in una società sempre più mobile hanno permesso, soprattutto nelle professioni intellettuali, di conciliare lavoro e affetti. Il principio darwiniano di adattamento ha funzionato anche con la tecnologia al posto dell'ambiente. E senza bisogno di leggi. Ma proprio per questo motivo, la variabile della sorveglianza su smartphone permessa per legge, che, si noti bene, non introduce incentivi alla produttività, rischia di peccare di asimmetria. Con un lavoro sempre più ubiquo e parcellizzato, le aziende saranno pronte a mettere nel loro algoritmo anche tutta la produttività di email spedite in fila dal medico, di telefonate domenicali, di controlli sui documenti di lavoro fatti sul sofà il lunedì sera per portarsi avanti? È questa la maggiore contraddizione che rischia di emergere nell'ossessione del controllo. Tecnologie del 2000, ma una forma mentis pre-internet che rimane spesso ancorata agli orari dell'estinta fabbrica elisabettiana. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Sideri, Sorvegliati sul lavoro dal Grande Fratello, dal Corriere della Sera del 22 giugno. La polvere è la maledizione degli appassionati di musica e non solo per i maniaci del vinile, perché i 6 mg di polvere per metro quadro che ogni giorno si depositano nelle nostre case possono danneggiare anche CD e DVD, seppur in misura minore. Ma come si forma la polvere e cosa si può fare per evitare che si formi, ammesso che si possa fare qualcosa? La natura esatta della polvere domestica dipende in parte da fattori stagionali e ambientali. I venti e i temporali, che negli ultimi anni sono aumentati di intensità, portano più polvere rispetto al passato. Anche i dintorni di un palazzo e le specifiche correnti d'aria giocano un ruolo importante. La polvere dipende anche dall'età di un'abitazione, dai materiali con cui è stata costruita, dalla tipologia, dalle condizioni e dalla qualità degli infissi e dell'arredamento, dai sistemi di riscaldamento e condizionamento e dalla pulizia dei locali e di chi ci abita. Ma che cos'è la polvere? In un ambiente domestico comprende materia organica e inorganica microscopica, inclusi peli e pelle animale o umana, fibre tessili, in particolare da tende, vestiti, tappeti e lenzuola, rifiuti organici, insetti in decomposizione, polline, spore della muffa, batteri, sabbia, terra e soprattutto i piccoli acari che si nutrono di tutto questo e naturalmente le loro feci, che mediamente vengono deposte 20 volte al giorno. Una ricerca tedesca stima che mediamente in una casa si accumulano ogni giorno circa 6 mg di polvere per metro quadro e ogni ora si depositano circa 1000 particelle di polvere per centimetro quadrato. Un elemento importante è che ognuno di noi, mediamente, perde 1,5 grammi di pelle ogni giorno. Più grande è la persona, maggiore è il problema. Di conseguenza, la polvere è qualcosa che non si può evitare. Una ricerca americana rivela che in una casa di 6 locali si depositano circa 20 kg di polvere all'anno. E più gente c'è che cammina attorno alla casa, più polvere si accumula. Cosa si può fare per minimizzare la formazione della polvere e per eliminarla? In media, ognuno di noi passa un terzo della propria vita a letto. Quindi la nostra camera da letto non è l'ambiente ideale per un impianto Hi-Fi o home theater. Tuttavia, si può ridurre la quantità di polvere usando lenzuola e federe traspiranti, lavandole ogni settimana e tenendo tutti i vestiti negli armadi, anziché lasciarli fuori sparsi qua e là. Quando si lava la biancheria, è importante verificare che la lavatrice non provochi la formazione di lanugine e non bisognerebbe stendere il bucato dentro casa. In qualunque stanza si decida di collocare l'impianto Hi-Fi, è meglio che non ci siano tappeti e al posto delle tende sarebbe più opportuno avere delle veneziane in laminato o in legno. Inoltre, nelle vicinanze dell'Hi-Fi, dovrebbe essere ridotta il più possibile la presenza di oggetti che possono creare polvere, come ad esempio libri e giornali. E nelle case dove ci sono piante o animali, bisognerebbe passare l'aspirapolvere un giorno sì e un giorno no. Una volta ridotto il numero di sorgenti di polvere, dovremo cercare di ridurre gli acari, che si nutrono di pelle morta e prosperano sui pavimenti, soprattutto nelle stanze più calde, più scure o più umide, dove le femmine degli acari depositano fino a 50 uova ogni 3 settimane. Amano soprattutto i tappeti, i materassi, le lenzuola, che andrebbero quindi ridotti il più possibile. Bisogna assicurarsi che insetti e piccoli mammiferi non entrino attraverso i condotti di ventilazione, dal tetto o dalle fessure sotto alle porte, che andrebbero quindi ben isolate, assieme alle finestre. Tutta la polvere visibile dovrebbe essere rimossa con uno spray antipolvere e con un panno preferibilmente antistatico e in microfibra, che andrebbe lavato dopo ogni utilizzo, senza usare ammorbidenti che ne ridurrebbero l'efficacia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Tim Jones, Dust to Dust, dal numero di maggio del mensile Record Collector.